La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo 19 di marzo sono le 16.30 primi 58 secondi. Innanzitutto un saluto rituale dovuto a tutti i papà, visto che è la festa del papà e quest'anno per la prima volta tardivamente la cosa riguarda anche me. Non si fanno mai gli auguri a se stessi, io solo imparare da imparare da ciascuno di voi, perché ci arrivo da vecchio alla condizione di padre. Allora andiamo subito al tema del giorno, dopo aver ricordato l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it, e nei prossimi giorni vedrete che faremo altre puntate dopo il tema che abbiamo toccato ieri, sia pur tenendo le orecchie aperte a quello che avveniva purtroppo a Tunisi, con l'ospite che abbiamo avuto ieri che ci ha raccontato quella terribile storia, no? Di un prodotto finanziario che la banca gli aveva fatto sottoscrivere con atti falsi a distanza di tanti anni, lui ha dovuto vendere un pezzo dell'azienda e non ha ancora avuto giustizia. Ne sono arrivate altre segnalazioni di casi simili, quindi ci torneremo, quindi l'indirizzo utilizzatelo per proporre sempre le vostre storie e dirci quali altri aspetti dei guai italiani o delle cose che funzionano in Italia portare in trasmissione. Ma oggi all'800240024 per telefonare, al 349-238-6666 per le opinioni con gli sms, è un po' d'obbligo restare su quello che è successo ancora ieri a Tunisi. Quindi io vi faccio, prima di leggere due brani che mi hanno molto colpito oggi dai giornali di stamane, e poi di fare un po' di domande a un ospite che seguo le vicende internazionali molto meglio di me, vi pongo due quesiti, insomma, per raccogliere le vostre opinioni dopo i fatti di ieri, con i primi italiani uccisi direttamente da un'azione dell'ISIS. La prima questione è la stessa di ieri: se secondo voi facciamo abbastanza oppure no? E questo fare abbastanza significa non solo l'impegno nelle azioni internazionali, militari e non militari, che sono in corso nei confronti del mezzo mondo in cui sono attive oramai sigle islamiste che si richiamano all'ISIS, il vero successore di Al-Qaeda, ma con un programma che non è quello di Al-Qaeda, è quello di fare uno Stato, cioè di controllare territorio, di tornare a un fondamento che Al-Qaeda non considerava affatto prioritario. E la seconda domanda è invece relativa al fatto che se possiamo credere, o se non sia invece un'illusione, che con un atteggiamento, come devo dire, non in prima fila, non di protagonista, con un atteggiamento che per molti versi coerente a decenni di politica italiana sulle questioni medio orientali nei confronti del mondo islamico, arabo e così via, cioè questo classico atteggiamento italiano del non esporsi e contemporaneamente riservatamente in qualche maniera trattare, per come faceva Giulio Andreotti, come hanno fatto per tanti decenni i nostri servizi ai tempi della Prima Repubblica, se pensate che questo sia una strada invece più coerente alla vocazione, alla storia del nostro paese, agli interessi del nostro paese. Ma si può davvero immaginare una strada di questo tipo nel mondo di oggi, di fronte a ISIS, di fronte a questa grande chiamata che suscita entusiasmi e adesioni a migliaia in Europa, nel mondo avanzato, con la gente che va lì, si arruola, combatte? È davvero pensabile una cosa simile? E ancora il voto di Israele, che avete visto, hanno votato in Israele sorprendendo tutti perché Netanyahu ha rivinto, la destra ha rivinto, ci sarà un governo di destra nazionalista, il quarto governo Netanyahu, tutti i giornali oggi avrete visto hanno titolato su però Israele così rischia di essere più sola. Sì, certo, isolata, ma non è che per caso è responsabilità nostra, dell'Italia, ma dell'Europa in quanto tale, e anche degli Stati Uniti di Obama, aver fatto venire questa paura agli elettori di Israele, che hanno scelto quindi un governo duro, tosto, che non vuole trattare con niente e con nessuno e che si sente minacciato dall'Iran, che è il nuovo alleato dell'Occidente nei confronti di ISIS, e che quindi per questo creerà un problema aggiuntivo ancora più grave di quanto non sia da decenni nello scenario medio orientale. Allora chiamateci per dirci la vostra opinione su questo, che è un'opinione sull'Italia, su che cosa deve fare l'Italia in realtà. Ecco, e prima di presentarvi l'ospite io vi leggo solo due brani che mi hanno molto colpito. Il primo, io vi invito anche il suo recente libro, a leggere il suo recente libro sul califfato di Domenico Quirico, lo sapete, un grandissimo giornalista della Stampa che è scampato a mesi e mesi di sequestro proprio da parte dei sostenitori, no, del califfato, e che oggi scrive un articolo sulla Stampa dal titolo La guerra totale islamista, che ha dei toni che apparentemente sembrano apocalittici rispetto a come noi siamo piegati su noi stessi, alle nostre vicende italiane di scarsa crescita e disoccupazione, ma in realtà secondo me dovrebbero fare molto riflettere. E poi voglio leggervi invece un brano più breve di l'intervento di oggi su Repubblica di Gad Lerner. Gad Lerner, lo sapete, è un aspro critico dell'occidentalismo, di Israele, eccetera eccetera, eppure scrive oggi parole che, proprio perché vengono da lui, secondo me fanno riflettere ancora di più. Allora, Domenico Quirico, cosa dice in questo articolo La guerra totale islamista? Leggo. Guardate la carta geografica, con zampate feroci, larghissime, l'Islam che si è autonominato a sciogliere il nodo escatologico del destino umano, a fondare il regno di Dio sulla terra, ci esclude da parti intere del mondo e stirpate col ferro rovente. Il Sahara e la Libia proibite, il Sinai letale, la Siria e la terra tra i due fiumi cancellate dell'Iraq, e la Tunisia, ecco la Tunisia, appena riammessa nel branco dei paesi tranquilli, democratici, legalizzati, e come, hanno votato una, due, tre volte da 4 anni a questa parte, hanno vinto i nostri, i laici, quelli in giacca e cravatta, esultavano i candid, per cui le elezioni da sole hanno una specie di funzione scaramantica, e invece improvvisamente, con sangue italiano, la Tunisia scompare di nuovo dalle nostre mappe di viaggiatori sicuri. Troppo pericolosa per occidentali, miscredenti, nemici, kufar. Il mondo si richiude sugli inventori della globalizzazione, che siamo noi. Ne avanza un altro, col ferro, il fuoco, il sangue, la guerra. Sempre più numerosi, giovani tentati, brancolanti, in cerca di profeti, si chiedono: è di nuovo il momento islamico della storia del mondo, come fu ai tempi del primo califfato? Il successo genera successo, adesioni sciagurate, arruolamenti, il loro viaggio dura secoli, si arruolano volontari in questa storia morta, in questi secoli di cenere, solo per incontrare questo sogno feroce. La storia non si vede, purtroppo, come non si vede crescere l'erba, ma c'è la magia perversa e letale della parola, sciagurata e perfetta, e l'intuizione di Daesh, che è appunto in arabo l'ISIS, fa risorgere il califfato, la mitica età dell'oro per ogni musulmano, per riavvolgere la storia al contrario. Perché no? Noi cerchiamo distinguo bizantini tra le sigle dell'internazionale islamista, ma intanto tunisini europei, siriani e ceceni, nigeriani e afghani fanno evaporare la loro identità precedente entrando nel mondo totale della guerra santa. Seguono chi li ha già preceduti nelle vampe dell'odio, e per loro Dio è un libro e l'uomo una cosa a cui non pensano più. Un mese fa, continua Quirico, sto finendo, ero in Tunisia, gente affranta, giovani senza lavoro che presidiavano interminabili caffè, chiassose beghe di mediocri politicanti, la sguaiata volgarità dei soliti ricchi, tutti raccontavano storie sinistre, ragazzi scomparsi a centinaia, a migliaia, sono andati laggiù, dicevano, e mormoravano come di persone che hanno contratto una terribile malattia e che non si rivedranno più, i martiri dello Stato del Levante, i miti tunisini che sognano un Dio che li accarezzi per fugare in loro il timore dell'universo, che dia loro una casa ove rifugiarsi e non soffrire. Ecco, l'articolo è tutto in questo tono e si conclude con una specie di visione di quello che potrebbe avvenire di qua a 10 anni. Uno scenario possibile tra 10 anni, lo Stato islamico stabilizzato e saldo nel suo territorio, senza più minoranze religiose, milioni di persone che vivono sotto il suo governo, il petrolio estratto da compagnie cinesi che lo rende ricco, il basso Iraq solo a salvarsi grazie a Teheran, l'Arabia Saudita presa d'assalto. Quegli uomini sono capaci di tutto, sono una cricca sempre più piena di forze di sicurezza, mentre noi che aspettiamo non abbiamo niente. Viviamo sulla lama del coltello, ci sbilanciamo tra un minuto di speranza a un altro minuto di speranza, ma loro in realtà ci tengono ben stretti al morso, gli uomini del califfato, tutti uniti in quella dannata cricca che il successo aumenta ogni giorno. Uno potrà dire: la mano ha preso il cuore di Domenico Quirico anche per quello che gli è successo. Non lo so, a me sembra una descrizione realistica di come noi sottovalutiamo. Gad Lerner, ripeto, con tutte le sue note posizioni politiche, scrive oggi su Repubblica: la scelta militare è imprescindibile. E al tempo stesso ne avvertiamo però tutti i limiti, perché è chiaro che in questo conflitto le implicazioni culturali sono altrettanto decisive. Non aiuterà, questa è l'opinione di Lerner, è ovvio, il conclamato irrigidimento di Netanyahu vittorioso in Israele contro la nascita di uno Stato palestinese, quando i musulmani per primi sono chiamati a farsi protagonisti di una partnership con le democrazie europee contro il jihadismo. Le insidie di un'azione di polizia internazionale fanno tremare le vene ai polsi, ma la scelta contraria di asserragliarsi sulla sponda nord del Mediterraneo, nell'illusione di poter interrompere il flusso che da sempre ci lega ai nostri vicini mediterranei, equivarrebbe a un gesto di autolesionismo. E quindi Lerner dice: noi ci dobbiamo impegnare in un'azione di polizia internazionale, ma con una scelta chiara, non è che aggira la parola, una scelta militare, lo pensa Gad Lerner. Allora, questa premessa per presentarvi l'ospite, Guido Olimpio, che è un giornalista del Corriere della Sera che a me piace molto, insegue le notizie, se lo seguite su Twitter, ogni quarto d'ora di tutte le fonti internazionali, sta lì a Washington per il Corriere della Sera e lo ringrazio di essere con noi ai nostri microfoni Radio 24. Grazie Guido. Buongiorno a voi, grazie a voi. Allora, rispondi, inizia un po' a rispondere anche tu a queste domande. Secondo te l'Italia sta facendo abbastanza? Lo sta facendo abbastanza, ma temo che non si sappia bene cosa fare. Ho sentito gli interventi molto interessanti che tu hai letto. Certo, intervenire, ma intervenire come e dove? Per acchiappare chi? Il problema è che l'avversario è molto sfumato, è un avversario a volte impalpabile. E ci stavamo preoccupando della Libia e hanno colpito in Tunisia. Domani magari capiterà in Marocco. Un'operazione militare di che tipo? Un'operazione politica di che tipo? Un'operazione di polizia di che tipo? Cioè, cosa facciamo? Dove li andiamo a prendere? Perché è vero che questi terroristi sono e sono visibili, ma al tempo stesso sono tutti sparpagliati in un'area così enorme che è difficile andare a prendere tutti. Ecco perché sono abbastanza perplesso. Ma il nocciolo duro dell'espansione, dove controllano territorio, sovranità con uffici pubblici e dove si concentra anche il più della loro finanza, cioè la parte tra Siria e Iraq, ecco, quello come obiettivo, e quindi intensificare tutte le azioni militari coordinate con una coalizione ancora più ampia in quell'area lì, non avrebbe un significato di svolta secondo te? In qualche modo ridurrebbe, certamente, però è sempre un problema di partner. Io sto ai fatti, no? Guardiamo cosa è successo in Iraq, o meglio ancora in Siria, si è riusciti a limitare i danni in alcune zone perché c'è un partner affidabile, sì, a un certo punto, o comunque un partner affidabile a tempo, che sono i curdi, aiutati dall'aviazione della coalizione degli americani. I curdi hanno ripreso parte del loro territorio e c'è un partner in Iraq, punto focale. Il nostro partner è un partner ambiguo perché è molto più vicino all'Iran che non a noi, quindi tu puoi aiutare in questa fase il governo iracheno a riprendere una parte del paese. Dopo che succede? Dopo si deve arrivare ad altri accordi, quindi bisogna fare un accordo con l'Iran, ma molti non sono d'accordo su questo, scusate il bisticcio di parole. Il problema è sempre quello dell'interlocutore. Certamente io penso che si dovrebbe arrivare a un contenimento, a una riduzione del territorio sotto controllo dell'ISIS, soprattutto nella fase irachena. Dopo però si presenta il problema del post. Come dice qualcuno, quando tu parti per una guerra devi sapere bene quello che hai in mente. Non averlo saputo in Iraq ha portato a un disastro pazzesco. Esatto, è questo l'esempio, cioè ci si è affidati un progetto che era incompleto e quindi intervenire senza avere la garanzia del dopo è quello che anche che è successo in Libia, no? Cioè in Libia si è rovesciato un dittatore, ma il rischio che il paese diventasse quello che è era ben chiaro, era stato detto, raccontato ed ecco dove ci siamo trovati adesso. Allora, la domanda che ti anticipo, poi la risposta tra 60 secondi dopo l'informazione stradale che abbiamo fissa a quest'ora che dura un minuto è: ma c'è una, tra virgolette, possibile via italiana coerente a quel, come lo vogliamo chiamare, non esporsi traccheggiante sotto il tavolo trattando, che è inciso per tanti versi nella storia dell'Italia negli anni della Prima Repubblica, non solo della Prima Repubblica? È possibile applicare una tattica di questo tipo anche nei confronti dell'ISIS, nei confronti delle fazioni armate di Al-Fatah portavano negli anni 70-80 azioni di terrorismo contro Israele? Di fatto noi abbiamo fatto così, ma è possibile anche con ISIS secondo te? la versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta alle 16:46, primi 47 secondi. Stiamo parlando con Guido Olimpio da Washington, il Corriere della Sera, di cosa facciamo, se facciamo abbastanza, c'è una via italiana verso l'ISIS, eccetera. Gli ho fatto una domanda e quindi adesso lui risponde. Intanto vi do lettura di alcuni dei vostri tantissimi sms che stanno arrivando, poi ci saranno anche le telefonate. Alcuni si trovano già d'accordo con quello che diceva Guido Olimpio prima. Dice: qui a chi si spara se si fa l'azione di polizia militare? Cominciando da dove? Cosa facciamo? Applichiamo, uccideteli tutti, Dio saprà riconoscere i suoi? Altri come Lello, c'è tutto un filone di questi messaggi, ma insomma la credibilità tanto politica internazionale dell'Italia, anche in termini di difesa, anche di fronte agli alleati, da vicenda come quella dei Marò, non è che proprio non sia risultata intaccata. Ce ne sono tanti su questi che tornano su questo punto dei Marò come incapacità italiana di esercitare un ruolo, ed è difficile ovviamente non dare ragione anche a voi. Altri come Antonio sono molto critici sull'idea che l'Italia assecondi azioni militari, perché dicono: se facciamo la lista, dice Antonio, di tutto quello che abbiamo speso in guerre che hanno avuto effetti disastrosi, come si diceva prima, vedere Iraq e Afghanistan dal 1991 in avanti, avremmo fatto la fusione nucleare pulita, e non è affatto detto che quei paesi non starebbero meglio. Allora, che dici, Guido Olimpio? C'è una via italiana possibile anche verso l'ISIS? No, non credo che si possa fare i passi. Il terrorismo islamico è molto insidioso. Io non credo a nessun tipo di speculazione o gioco politico nei confronti del terrorismo islamico, da qualsiasi parte sia, sia uno di destra che di sinistra. Non si può andare a parti perché ha una sua agenda, l'avete detto. Io non credo ai disegni apocalittici che ho sentito prima, sì. Perché sto ai fatti, è pericoloso, ma insomma il controllo dell'ISIS oggi è relativo. Ma per stare alla tua domanda, non si può fare una via così glodomoro, no? Quello che era chiamato, ecco, in questo modo, ossia di andare a sottobanco, ci mettiamo d'accordo. Colonnello Giovannone, che siamo. Esatto. Non è possibile perché è una realtà molto composita, molto frastagliata. Le etichette oggi valgono fino a un certo punto, questi elementi passano da un gruppo all'altro a seconda anche delle condizioni, delle situazioni. Quindi con chi fai l'accordo? Faccio un esempio, gli inglesi, no? Vi ricordate? Gli inglesi hanno ospitato per anni militanti e ideologi islamisti, sì. Eppure hanno avuto due attentati terroristici di un certo livello. Questo perché? Perché hanno fatto il patto col diavolo, ma il patto col diavolo oggi non funziona. Esatto, perché il diavolo non mantiene la parola e non è neanche interessato. Altra domanda per Guido. Stamattina, questo ce lo fa notare anche una nostra ascoltatrice, Silvana da Pisa, le due compagnie di crociere che avevano le navi da cui erano scesi i turisti per il museo del Bardo, cioè Costa e MSC, hanno detto che intanto dal breve Tunisi viene esclusa dalle rotte delle navi da crociera. E poche ore fa, a questi microfoni di Radio 24, Tarek Ben Ammar ha ricordato che c'è anche una responsabilità al di là delle lotte armate, della lotta in termini di sicurezza contro il terrorismo, perché i miliardi, 20 miliardi di euro, anzi di dollari, promessi per i paesi delle cosiddette primavere islamiche dal G20 anni fa, non si è visto nulla in quei paesi e neanche in Tunisia. Allora la domanda è: ritrarsi quando avvengono queste cose, Guido, non è in realtà fare il gioco dell'ISIS? Purtroppo sì, perché è quello che vuole, sia che sia l'ISIS o qualche altro gruppo. Purtroppo assistiamo a quello che avviene anche in Egitto negli anni 90. I terroristi colpirono l'industria del turismo perché volevano creare ulteriori problemi, guai sociali. Sappiamo che il turismo è una fonte importantissima in alcuni paesi, appunto Egitto e Tunisia. Ritirarsi si fa il loro gioco, ma dall'altra parte è una bella responsabilità quella di portare dei turisti, no, in queste zone. La scelta è complicata e anche in questo campo, vedete, non c'è una risposta unica. Ah no, certo, però una cosa si può dire, cioè il bilancio della presidenza Obama tra primavere arabe, l'isolamento di Israele, le incertezze verso la Siria, eccetera eccetera, non mi pare che anche quello abbia aiutato. Certamente, è quello, però è come si è ritirato dopo gli errori dell'altra presidenza e si è fatto un altro errore. la sua famosa frase è quella: non fare cose stupide, ma non fare cose stupide non equivale a fare cose intelligenti. Esatto, e soprattutto se tu sei l'America, io dico sempre questo: se tu sei l'America puoi anche startene dentro la Casa Bianca, ma poi qualcuno viene sempre a bussare alla tua porta. Ah, è come, ci viene a bussare con forza, quindi, E quindi tu non ti puoi sottrarre. Allora, sentiamo qualche altro ascoltatore o qualche considerazione che così ti consente di aggiungere commenti. Cominciamo con Gian Pietro da Ferrara. Gian Pietro, prego. Buongiorno, dottor Giannino. Prego. Complimenti per la trasmissione. Andiamo al punto. Io sono un ex ufficiale dell'esercito e ho avuto modo di sentire le affermazioni dei vertici dell'esercito a proposito di un intervento in Libia. No? Sì. Ho qualche perplessità in proposito, devo essere sincero, perché non capisco quali potrebbero essere le finalità. Soprattutto perché non mi è chiaro come queste vengano coordinate con le politiche, diciamo, esplicite oppure implicite di altri paesi che sono interessati a determinati equilibri nell'area. E parlo in particolare della posizione francese, che ovviamente ha destabilizzato l'area, e sappiamo a che cosa mi riferisco. Come no, l'intervento in Libia, come no. Della restituzione dei Gheddafi, certo. E la posizione inglese, fino a che noi non capiamo quali sono le... Come si fa, diciamo, a mettere in piedi un'azione di questo tipo? È la stessa tesi dell'ex generale Mini, l'ex comandante del COIR, che su questo la pensa come lei e interviene energicamente sui media italiani. Giriamo subito a Guido Limpio la questione. L'Italia non l'ha superata questa divergenza assoluta da cui fu travolta ai tempi del governo Berlusconi per l'operazione in Libia, vero Guido? No, esatto, abbiamo avuto questo problema, torna costantemente. Il vero problema è che mentre di fronte hai un nemico che si è diviso tra fazioni, gruppi, però ha sotto sotto comunque ha un filo comune e un interesse comune, possiamo dire. E l'Occidente non ha un interesse comune, ha interessi privati, particolari. Esatto. E in questo caso con la Libia sono emerse abbastanza in maniera evidente. Chiaramente. No? E si trattava anche di ridurre l'influenza e la presenza nei campi petroliferi libici dell'ENI, insomma, parlando chiaramente. Ecco. Esatto, parliamo anche del problema, ad esempio, degli immigrati clandestini, dei famosi barconi. Per noi per anni è stato un problema solo nostro, adesso forse con lo spettro del terrorismo sta diventando un problema più europeo, ma forse, vediamo che ma anche è molto lenta. È molto lenta, non c'è dubbio. Gino da Roma, prego Gino, deve essere breve. Sì, rapidissimo, buonasera a tutti. Io sono contrario ad un intervento militare perché, prima di tutto, come avete già detto, la difficoltà di riconoscere il nemico, qui si tratta di dichiarare guerra a una porzione di popolo, non ad un esercito. Ma soprattutto perché un intervento militare potrebbe trasformarsi in una nuova guerra santa, nel caso in cui un islamico non appartenente all'ISIS dovesse morire. Insomma, l'ISIS farebbe di questo la sua arma vincente, coinvolgendo più islamici possibili. Sentiamo Guido Olimpio brevissimamente. Lo vogliono un maggior coinvolgimento, secondo te, quelli dell'ISIS? Così diventa la guerra santa? Ma certamente, è proprio il loro gioco, quindi sono d'accordo anch'io. Noi dobbiamo cercare di dividere lo schieramento, non di compattarlo. Una presenza di un soldato occidentale in terra libica, faccio un esempio, favorisce subito i ricordi coloniali. Coloniali, non c'è dubbio. E quindi sarebbe questo l'errore. Allora, questo significa però dividere, significa accettare di cooperare con la parte sciita contro l'estremismo sunnita, e quindi si va al problema dell'Iran e di Israele. Comunque, continuate con la D24, grazie a Guido Olimpio, appuntamento con me a domani.